Il podcast di Sagre Toscane. Numero di maggio, benvenuti, un saluto da Nicola e da Alberto. Ebbene venga maggio, e maggio l'è venuto, ci siamo. Sì, cioè, canta maggio in realtà. E noi invece cantiamo le sagre del mese. Sono moltissime, da questo mese in poi sono talmente tante che non potremo evidentemente neanche azzardarci a citarle tutte, è praticamente impossibile. Quindi parleremo delle cose più interessanti, andiamo innanzitutto con il sommario. Il sommario. In questo episodio la specialità del mese è il cinghiale e abbiamo fatto un'intervista a Desiree, che è una delle organizzatrici della Sagra del Cinghiale di Capannuccia nel comune di Bagno a Ripoli. Per tutte le sagre abbiamo scelto il Festival della Lumaca, che si tiene a Fossa del Lupo nel comune di Cortona, e a questo proposito abbiamo un'intervista con Luciano Picchi del gruppo degli organizzatori. Dopodiché il calendario con il Prugnolo e altri eventi. La specialità del mese è il cinghiale, pieno zeppo di sagre in tutta la Toscana. Sì, è una specialità molto amata e gettonata, certo non limitata al mese di maggio, ma diciamo sono molti gli eventi comunque imminenti e interessanti, anzi ci sono alcuni già iniziati, si chiudono ora nel primo weekend di maggio a Certaldo, a Chiocchio, nel Chianti e a Monteloro nel comune di Pontassieve. Ma c'era un altro che invece sta iniziando nel comune di Bagno a Ripoli, che è la Sagra del Cinghiale a Capannuccia. Esattamente. Noi vogliamo saperne qualcosa di più dalle parole degli organizzatori, anzi di un'organizzatrice. Allora, siamo al telefono con Desiree Righi, consigliera del circolo SMS di Capannuccia nel comune di Bagno a Ripoli, che ci racconta quindi qualcosa per quanto riguarda la saga del cinghiale che si terrà ora in maggio. Esatto, buonasera. Allora, la Sagra del Cinghiale nasce 33 anni fa, nel 1981, a Capannuccia, diciamo per volontà di raccogliere fondi da parte del circolo e della squadra dei cinghialai di Grassina, Capannuccia e Chiocchio. Inizialmente era una sagra molto piccola, si faceva solo nella sala del circolo, adesso ci siamo ingranditi, abbiamo una clientela maggiore, quindi usiamo anche la pista dove c'è una struttura coperta. E siccome il paesino è piccolo e le attività non sono molte, diciamo che è un evento che coinvolge tutto il paese, o come volontari o come commensali, e quindi è un grande momento di aggregazione che si aspettano un po' tutti in paese e nel comune, diciamo. Ho capito. Quindi la saga del cinghiale, c'è qualche specialità in particolare che ci vuoi raccontare? Allora sì, certo, di saga del cinghiale ce ne sono tantissime, quindi noi puntiamo sul nostro cavallo di battaglia che è il cinghiale alla Giuliano, un secondo di cinghiale, una variante diciamo del cinghiale al sugo, dello spezzatino con pomodoro e olive, quello tradizionale, che come tutte le grandi invenzioni, tutte le grandi scoperte è nato per caso in una delle prime edizioni a causa della mancanza del pomodoro, che è un ingrediente fondamentale per fare il cinghiale al sugo. Quindi Giuliano, che è Giuliano Canocchi, uno dei cinghialai storici della sagra, insieme alla moglie si sono inventati questo piatto alternativo usando arista di cinghiale e cotta in un sugo bianco, senza pomodoro appunto, che ha un gusto saporito ma più delicato rispetto al cinghiale e al sugo tradizionale. Ho capito, quindi questa è la specialità, insomma, questa è la di specialità. Punta. Sì. Poi ci saranno sicuramente altre ricette. Certo, abbiamo gli antipasti di cinghiale di maiale, tra gli affettati di cinghiale spicca la soprassata casereccia, è molto apprezzata. E come primi abbiamo penne, tortellini e polenta al cinghiale, zuppa di funghi per chi non ama il cinghiale, ci sono anche loro, e poi abbiamo le lasagne al sugo di cinghiale, che sono molto buone, le prepara la mia nonna, quindi sono una garanzia. Immagino. Benissimo, insomma, diciamo che la panoramica mi sembra abbastanza invitante, insomma. Volevo sottolineare una cosa, mi sono dimenticata, che noi non utilizziamo cinghiale congelato per i ristoratori, ma cinghiale fresco. Ci teniamo Questo. particolarmente perché c'è stato chiesto e c'è una bella differenza. Sì, quindi ci saranno, non so, delle squadre cinghialai lì nella Sì, la zona. squadra di Sì. cinghialai che si occupa anche poi della realizzazione della sagra. Abbiamo cinghialai chef che si occupano anche di quello. Ho capito, quindi insomma mi sembra molto interessante, ci vuoi dire quali sono le date più precisamente? Certo, allora iniziamo domani, il 1º maggio, a pranzo e a cena. E sempre a pranzo e a cena, domenica 4, 11 e 18, mentre solo a cena il sabato 3, 10 e 17 maggio. Benissimo, allora queste sono le date, chi si vorrà aggregare diciamo, alla sagra sa come fare, località Capannuccia, quindi comune Si di va in Agricoli alle Bagnarripoli. porte di Firenze, vicino al Chianti siamo. Sì. Infatti, Vi insomma, mi aspettiamo sembra che tutti. Grazie benissimo, mille. andiamo volentieri. Grazie, Desiree, un Ciao, saluto. grazie. La sagra di Capannuccia non è l'unica, ce ne sono molte altre. Alcune le abbiamo visitate, le conosciamo. Ci sono vari eventi nella regione, anche in altre province, chiaramente, oltre a quella di Firenze, che forse è quella più attiva da questo punto di vista. A giugno, ad esempio, a Cerreto Guidi c'è la sagra del papero e del cinghiale, noi ci siamo stati un paio Sì, d'anni abbiamo fa. fatto anche un video per chi fosse interessato, è sulla parte del magazine del nostro sito. Poi c'è un evento che è quasi poetico, sto parlando del valzer delle tagliatelle al cinghiale, di cui aspettiamo le date per giugno. Ancora non le sappiamo perché non siamo riusciti a trovare gli organizzatori e sul sito del comune non c'è niente, però merita assolutamente per chi non la conosce, probabilmente nella zona di Firenze non è molto conosciuta, mentre a Siena, avendo abitato a Siena, io sono stato varie volte. Queste tagliatelle al cinghiale meritano assolutamente una visita, sono un piatto fantastico, peraltro, ed è una piccola frazione raggiungibile dalla Siena Grosseto, sul sito nostro trovate tutte le indicazioni. Poi altri eventi vanno avanti per tutta l'estate, anche nelle zone di mare, da Massa fino all'Argentario, e poi anche nell'autunno, fine estate-autunno, ad esempio a Capalbio c'è una sagra che si tiene da molti anni e sono già uscite le date, anche perché è sempre la seconda settimana di settembre, fino poi a novembre inoltrato, dove a Chianni, in provincia di Pisa, si tiene quella che probabilmente è l'ultima sagra dell'anno del cinghiale. Tra tutte le sagre di maggio ne abbiamo scelta una in particolare che mettiamo in evidenza con un'intervista. Si tratta del Festival della Lumaca che si svolge a Fossa del Lupo, frazione di Cortona. E a questo proposito abbiamo intervistato il signor Luciano Picchi del gruppo degli organizzatori. La nostra sagra, che oramai è alla 31ª edizione, avrà inizio il 24 maggio e terminerà il 2 giugno. La Festival della Lumaca, la specialità sono le lumache, spaghetti al sugo di lumaca e poi offriamo come secondo lumache in umido. Questi sono i piatti che la fanno da padrone durante l'arco del festival e tutti potranno gustare. Comunque per chi viene al festival non ci sono solo lumache, voglio dire, non è che debbano venire solo gli amanti delle lumache, perché noi proponiamo ottimi antipasti toscani, ma anche spaghetti a ragù di carne, fatto della zona, prosciutto, salame, carne alla brace, abbiamo la pizzeria, quindi ci sono un sacco di offerte, voglio dire, ecco. C'è un po' di tutto. Mentre riguardo al quindi il piatto delle lumache è una ricetta tipica del territorio, voglio dire, fa parte della tradizione Sì, gastronomica questa della zona. è una ricetta tipica nostra, diciamo, della zona. Sono lumache in salmì, parlando di lumache in salmì, si può dire che sono una cosa molto, molto, diciamo, segreta e particolare da preparare. Infatti abbiamo il nostro cuoco Enzo che con i suoi collaboratori, con lunga e paziente opera, impiegano dalle 8 alle 10 ore per fare e portare a tavola un piatto di lumache in salmì. prendono le lumache, le fanno bollire, le insaporiscono con varie verdure, odori, poi le mettono in un soffritto e vanno tutte in un pentolone che è molto bello a vedersi, anche esposto quando le vendiamo al pubblico, le esporzioniamo, si vede anche il pentolone dove sono le lumache, che è una pentola grande che può contenere fino a un quintale di lumache, voglio dire, quindi è anche bella a vedersi. E la stessa cosa è per gli spaghetti, lì la differenza è che la lumaca non è nel guscio, ma viene estratta dal guscio e quindi ci viene fatto un ragù al sugo di lumaca, è tutto particolare. Questi sono poi due piatti che la fanno, ripeto, da padrone durante l'arco del festival. Dal vostro volantino vedo che valorizzate anche prodotti tipici del territorio. Quali sono questi prodotti tipici? Ma sicuramente io nei prodotti tipici ci metterei le lumache, che sono il piatto per cui abbiamo nel tempo pensato di creare appunto il festival. Ma come prodotti tipici noi abbiamo il salame e il prosciutto della zona, utilizziamo il venerdì 30 giugno, 30 maggio la pasta fresca prodotta da un artigiano che fa parte del consiglio e che vendiamo quindi pici, ravioli alle verdure, caramelle al tartufo, poi il vino è della zona, i crostini di carne sono una ricetta tipica della zona, il ragù stesso di carne è un prodotto tradizionale della cucina toscana e locale aretina della Valdichiana, quindi diciamo che questi sono i prodotti che noi offriamo a chi interviene al nostro festival, diciamo. D'accordo, ora qui vedo tra l'altro, sempre dal volantino, che però la specialità delle lumache in Sammì sono servite solo in alcuni giorni particolari, Sì, dalle appunto 19. ci sono motivazioni dovute alla preparazione del prodotto, non è che è un prodotto che possiamo preparare in qualsiasi momento velocemente. Ripeto, noi le facciamo nei fine settimana, quindi sabato e domenica, quindi 24-25, poi le ripariamo il venerdì 30, il 31, l'1 e il 2, cioè non possiamo tutta la settimana permetterci il lusso di fare lumache perché, ripeto, con una preparazione lenta e lunga come hanno, dobbiamo farlo nei momenti in cui anche noi, che siamo tutti, diciamo, partecipanti e collaboratori volontari, Volontari. quando abbiamo il tempo disponibile per farlo, è questo che voglio dire, insomma, ecco. Certo. E dalle 7 in poi, quindi, giusto? Dalle 7 di sera. Sì, sì, sì, sì, sì. Non ci rimane che ringraziarla, insomma. Io ringrazio voi e vi ringrazio per la collaborazione. Il calendario. Allora, il prugnolo, fungo. Prugnolo, fungo Cos'è diffuso un po' in esattamente? tutta Italia, anche vari nomi, qualcuno lo chiama addirittura il fungo di San Giorgio perché si dice che maturi proprio nella festività relativa che è il 23 di aprile, anche se comunque dalle nostre parti le sagre si svolgono soprattutto nel mese di maggio. Qui comunque è un fungo primaverile, diciamo Un così. fungo prettamente primaverile, senz'altro pare che oggi stia diventando un po' più raro a causa anche della Strano. raccolta. Comunque le zone che la nostra regione dedica alle sagre del Prugnolo sono soprattutto il Mugello, ma anche la Val Tiberina toscana, per non parlare poi del Grossetano, Quindi c'è tutte qualche zone evento. di alta collina o anche montagna più o meno, Infatti, diciamo. assolutamente. Piatto tipico, le Buono. tagliatelle al fungo Prugnolo. Ma te le avevo mangiate? No, No. non l'ho mai mangiate, quindi anzi, speriamo che qualcuno ci inviti in No. qualche evento. Per degustare, Se diciamo, ci invitate veniamo comunque. questo appello lanciato L'appello per il in prugnolo. rete. No, io sinceramente ora sto guardando qua di pagina su Wikipedia, dice che è considerato eccellente, ma non da tutti e non dappertutto. Si vede un po' controverso questo fungo. Fungo controverso, forse sì, insomma, se non gode della stessa fama del porcino, magari per questo motivo, forse per palati particolari. La sagra più consigliabile di queste che abbiamo, forse una che si può... Ma ce ne possono essere più di una interessante. A Pieve Santo Stefano, appunto nella Val Tiberina, c'è la sagra del Prugnolo che si tiene tra il 9 e l'11 maggio, mentre invece a Montieri c'è la festa al Prugnolo il 10 e l'11 maggio, quindi sono praticamente contemporanee, mentre a Firenzuola, nell'Alto Mugello, ci sono una settimana verso la fine di maggio e una all'inizio di giugno, due settimane non consecutive comunque, precisamente il 24 e il 25 maggio, 7 e 8 giugno. Quindi, viva il Prugnolo! Viva il Prugnolo! Mese ricco di eventi, maggio, noi vogliamo citare forse quelli che potrebbero essere più interessanti dal nostro punto di vista, senza la pretesa di esaustività. Sì, alcune di queste poi ci siamo stati, come per esempio la sagra del Ranocchio a Brozzi, ricordiamo un grande piacere perché l'ambiente è cordialissimo. Sì, salutiamo infatti l'APO, organizzatore. Organizzatori, merita visitarla anche da altre parti della Toscana perché le cose sono molto buone, a parte i ranocchi fritti. Ma ricordiamo anche con grande piacere quelle piatte di pasta asciutta al sugo di pecora. Alla pecora. Erano veramente buonissime. E la sagra si tiene l'ultimo weekend di maggio e anche il primo di giugno e poi in replica anche il lunedì 2 giugno in quanto festivo, insomma. Poi nel calendario noi abbiamo inserito una sagra della provincia di Massa Carrara, se non sbaglio, giusto? Più precisamente in Lunigiana. Parliamo della sagra della cipolla di Treschietto, che è una varietà di cipolla tipica della zona. Locale, Locale, assolutamente. Siamo nel comune di Bagnone. E la sagra si terrà nei locali del circolo Due Torri, in località Mulini. Si potrà provare la cipolla in torte, ma anche direttamente in pinsimonio, oltre a poter provare i vini e salumi lunigianesi. Poi anche il borgo, l'antico borgo di Treschietto, gli udoli del castello sono un'attrattiva interessante per una vacanza 10-11 maggio. Tra le altre sagre cosa possiamo, diciamo, citare? Possiamo parlare di quelle che celebrano la frutta di stagione. Abbiamo la fragola, che verrà celebrata a Terricciola in provincia di Pisa, a Marsigliana nel Grossetano e anche a San Giuliano Terme, sempre Pisa. Ce ne sono molte altre evidentemente. Per non parlare invece della ciliegia, all'Ari, sempre in provincia di Pisa, che è uno degli eventi probabilmente più antichi della nostra regione, avendo superato già da tempo la 50ª edizione. Ma la ciliegia è anche Seggiano, nella zona della Miata. Come non parlare però poi anche della festa in collina, Murlo. Chi non la conosce, insomma, altre zone della Toscana, almeno una volta nella vita bisognerebbe andare a fare un salto alla festa in collina a Murlo, perché è veramente qualcosa di particolare, una festa unica. Come la possiamo definire? Una sagra, una festa paesana? Sì, io prima dicevo che è una specie di Woodstock delle sagre, perché l'atmosfera è assolutamente particolare a modo suo. Per chi si vorrà quindi far trascinare dall'atmosfera di Murlo, ci risulta che le date sono da giovedì a domenica, tra l'8 maggio e il 18. Un'altra sagra che ci piace ricordare è la sagra del Tortello a Poggioferro di Scansano. Siamo nel Grossetano, infatti il Tortello è quello mare in mano. Ce ne sono tantissime altre che non è detto che siano meno valide di queste che citiamo, intendiamoci quindi. E per quelle vi lasciamo chiaramente al nostro sito www.sagretoscane.com, dove chiaramente trovate tutti i dettagli e il calendario completo degli eventi che abbiamo sott'occhio. Concluso anche questo podcast, speriamo che vi siano piaciuti. Fateci sapere se avete qualcosa da commentare, nel bene e nel male. E anche altre sagre da segnalarci. siamo ai ringraziamenti finali, ringraziamo tutte le persone che sono intervenute durante questo podcast. E chi interviene regolarmente sulla pagina Facebook, che seguiamo con grande piacere e attenzione. Un saluto a Leonardo della nostra redazione. Protofunk, Funkorama, Local Forecast e Aston sono quattro brani di Kevin MacLeod che ringraziamo. Sito internet incompetent.com. Dopodiché arrivederci al numero di giugno. Cosa c'è, un'anteprima di giugno? Cosa ci potrebbe essere? Guarda, ho già tutto pronto ma non posso svelare niente. No! Quindi l'appuntamento sarà per il prossimo podcast. Per il momento speriamo di avervi soddisfatto le voglie maggioline di sale. Va bene, alla prossima. Buon appetito. Ciao.